Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Quinta puntata. Per 2 o 3 minuti restammo in silenzio, mangiando la ringa. Poi mia madre ricominciò a parlare. Mi spiegò alcuni modi di cucinare le chiocciole. Così avrei potuto insegnarlo a mia moglie, disse. Ma io le dissi che mia moglie non cucinava chiocciole e mia madre volle sapere che cucinava mia moglie in genere. E io le raccontai che cucinava in genere lesso. Lesso? Di che? Esclamò mia madre. Lesso di carne, dissi io. Di carne? Di che carne? Esclamò mia madre. Di carne di bue, dissi io. Mia madre mi guardò con disgusto. Mi domandò di che sapeva. E io le dissi che non aveva nessun sapore speciale, che era pasta con del brodo. «E la carne?» mi domandò mia madre. E io le dissi che veramente, di solito, non c'era carne dopo mangiato il brodo. Le spiegai tutto, insomma. Delle carote, del sedano e del pezzo di osso cosiddetto carne. Tutto accuratamente perché lei capisse come in Alta Italia si stava molto meglio che in Sicilia, almeno oggigiorno, nelle città almeno. E si mangiava in certo qual modo da cristiani. Ma mia madre mi guardava sempre con disgusto. «Oh!» esclamò. «Tutti i giorni, questo?» E io dissi, «Certo, mica solo le domeniche, fin quando si lavora e si guadagna, almeno». Mia madre era sconcertata. «Tutti i giorni? E non vi viene a noia?» disse. «E a te non viene a noia, l'aringa?» dissi. «Ma l'aringa ha sapore!» disse mia madre. E si mise a raccontarmi di tutte le aringhe che credeva di avere mangiato nella sua vita. Mi disse che in questo la sua capacità di mangiare aringhe e aringhe era come il padre suo, mio nonno. «Credo che le aringhe abbiano qualcosa di buono per il cervello», disse. «Danno un bel colorito anche». E illustrò tutto quello che credeva avessero di buono le aringhe per le varie cose e funzioni umane. Dichiarò che forse mio nonno era un grand'uomo proprio in grazia delle aringhe. «Era un grand'uomo? Il nonno?» io chiesi. Ricordavo vagamente di essere cresciuto nella mia più lontana infanzia con un'ombra su di me. Doveva essere stata l'ombra della grandezza di mio nonno. E chiesi, «Era un grand'uomo? Il nonno?» «Altro che... non lo sapevi», disse mia madre. Io dissi... di sì, che lo sapevo, ma le domandai che avesse fatto di grande. E mia madre gridò che era stato grande in ogni cosa. Aveva messo al mondo delle figlie grandi e belle, tutte figlie femmine, gridò. E si era costruito quella casa dove ora lei viveva, pur senza essere un muratore, con le sue stesse mani. «Era un grand'uomo», disse. «Poteva lavorare 18 ore al giorno ed era un gran socialista». Un gran cacciatore e grande a cavallo nella processione del San Giuseppe. Cavalcava nella processione del San Giuseppe, dissi io. Altro che era un gran cavaliere, più bravo di tutti qui nel paese e anche a Piazza Armerina, disse mia madre. Come vuoi che facessero la cavalcata senza di lui? E io dissi, ma era socialista. E mia madre, era socialista. Non sapeva né leggere né scrivere, ma capiva la politica ed era socialista. E io, come poteva cavalcare dietro a San Giuseppe se era socialista? I socialisti non credono in San Giuseppe. Che bestia che sei, disse allora mia madre. Tuo nonno non era un socialista come tutti gli altri. Era un grand'uomo. Poteva credere in San Giuseppe ed essere socialista. Aveva cervello per 1000 cose insieme ed era socialista perché capiva la politica. ma poteva credere in San Giuseppe. Non diceva nulla di contrario a San Giuseppe. «Ma i preti però immagino che lo trovavano contrario», dissi io. E mia madre: «E che gliene importava a lui dei preti?» E io: «Ma la processione era una cosa dei preti?» «Sei un bell'ignorante», esclamò mia madre. «La processione era di cavalli e uomini a cavallo. Era una cavalcata». Si alzò e andò alla finestra. E io capii che dovevo seguirla là. «Vedi?» disse. La finestra guardava sulla china dei tetti e poi i valloni, il torrente e i boschi nel sole invernale e la montagna di faccia dalle scogliere macchiate di neve. «Vedi?» disse mia madre. E io vidi più intensamente quei tetti coi comignoli senza fumo e il torrente, i boschi di carrubi, le macchie di neve più intensamente, ossia due volte reale. E mia madre disse: «La cavalcata partiva di là in faccia in direzione di quel palo del telegrafo. C'è una piccola chiesa che non si vede su quella montagna, ma la illuminavano dentro e fuori e diventava una stella, e la cavalcata partiva dalla chiesa con lanterne e sonagli e scendeva la montagna. Era sempre di notte, naturalmente. Si vedevano le lanterne e io sapevo che c'era mio padre in testa, un gran cavaliere, e tutti si aspettava nella piazza giù in basso o sul ponte, e la cavalcata entrava nei boschi, le lanterne non si vedevano più, si udivano solo i sonagli. Era una cosa lunga e poi la cavalcata spuntava sul ponte con tutto il chiasso dei sonagli e con lanterne e con lui in testa, come se si sentisse un re». «Mi sembra di ricordare», dissi io. E in effetti mi sembrava di averla almeno sognata qualcosa di simile. Scampanellio di cavalli e una grande stella in fronte alla montagna, nel vivo della notte. Ma mia madre disse: «Un corno! Non avevi che 3 anni l'unica volta che l'hai vista». E io guardai di nuovo quella Sicilia che era fuori. Poi tutta mia madre avvolta nella coperta rossa, dalla testa chiara ai piedi, e vidi che aveva scarpe da uomo ai piedi, scarpe vecchie di mio padre, da cantoniere, alte e forse coi chiodi, come sempre lei aveva avuto l'abitudine di portare per casa, ricordavo, onde stare più comoda o sentirsi in qualche modo piantata nell'uomo. È un po' uomo, costola di uomo. Tornammo a tavola e come la guardavo senza parlare, lei mi disse: «Ma che mi guardi?» E io dissi: «Non ti posso guardare». «Beh», disse mia madre, «se vuoi guardarmi, guardami, ma finisci di mangiare». Io tagliai un'altra fetta di pane, che era duro e bianco di crosta come cotto male, e dissi: «Ma che idea è venuta al babbo di andarsene con un'altra donna nella vecchiaia?» Mia madre parve sorpresa, offesa anche, e che avesse da obiettare ad ognuna delle mie parole. «Che ne sai tu?» gridò. «Me l'ha scritto lui», io dissi. «Ah, vigliacco!» gridò mia madre. «Ti ha scritto che ha visto un'altra donna e ha piantato me e è andato via con lei?» Io dissi di sì, che questo io avevo capito. E lei gridò: «Che vigliacco!» E io dissi: «Perché? Non è vero». E mia madre: «Come vuoi che sia vero? Non ricordi più che vigliacco era?» «Vigliacco», dissi io. «Ma sì», gridò mia madre. «Quando mi picchiava, poi si metteva a piangere e mi domandava perdono». Io diedi in un'esclamazione. «Ah», dissi, «si vede che gli dispiaceva». «Gli dispiaceva», gridò mia madre, «come se io non sapessi difendermi e non gliele dessi anch'io. Forse era questo che gli dispiaceva». Io risi. Risi e mi ricordai di loro, Mio padre, snello come un ragazzo e con gli occhi azzurri, e lei pesante, forte, con gli scarponi, loro due alle prese quando diventavano belve e si picchiavano, picchiando tutto, dando calci nelle seggiole, pugni nei vetri, bastonate le tavole, e noi si rideva e si applaudiva. Risi. E mia madre disse: «Capisci che vigliacco era?» E anche quando partorivo piangeva. Io avevo la doglia, ma non piangevo e lui piangeva. Avrei voluto vedere mio padre al posto suo. Immagino che gli dispiacesse vederti soffrire, dissi io. Gli dispiaceva, gridò mia madre. Perché doveva dispiacergli? Non stavo per morire. Era meglio se mi dava una mano di aiuto invece di piangere. E io che poteva fare? E mia madre? Come? Che poteva fare? Non fai nulla tu quando tua moglie partorisce. E io, bene, la tengo, vedi che qualcosa fai, disse mia madre. Ma lui non mi teneva nemmeno, si era soli in quelle solitudini e c'era tanto da fare, preparare l'acqua calda, ma lui sapeva solo piangere. O correva alla cantoniera vicina per chiamare le donne di là, questo gli piaceva. Avere altre donne in casa, ma loro non venivano mai subito e io avevo bisogno di aiuto, gli gridavo di aiutarmi, di tenermi, di farmi camminare e lui piangeva, non voleva vedere. Ah, io esclamai, non voleva vedere. Mia madre mi guardò con occhio un po' strabico. No, non voleva vedere, disse. Poi soggiunse: credo che vedevate più voi che lui. Uscivate. Io la interruppi. Vedevamo più noi che lui, dissi. E mia madre? Sì, voi altri volevate vedere. Uscivate sul pianerottolo dalla camera vostra e vi mettevate dove stava lui. Ma lui non alzava gli occhi e voi li tenevate spalancati. Guardavate lui che piangeva. Me che cercavo di camminare tenendomi ai mobili, e allora io gli gridavo di mandarvi via, ma lui nemmeno questo sapeva fare. Avrei voluto vedere mio padre al posto suo. Tuo padre? Io dissi. Sicuro, gridò mia madre. Lui era un grand'uomo, un gran cavaliere, un contadino che poteva zappare la terra 18 ore al giorno e aveva coraggio e faceva tutto lui quando la mamma partoriva. Così io avrei voluto vederlo al posto suo. Gli dicevo di mandarvi via e lui niente. Non capiva, non alzava gli occhi, aveva paura di guardare. E io lo chiamavo vigliacco, gli dicevo di aiutarmi, gli dicevo di tenermi perché avevo la doglia e lui, sai che mi diceva? Mi diceva, aspetta che arrivino. Chi doveva arrivare? Dissi io. E mia madre parlava delle donne che era andato a chiamare, ma non sempre le donne arrivavano in tempo. E io una volta mi sentii la testa del bambino fuori, era il terzo di voi. E mi buttai sul letto e gli dissi, corri, che c'è? E noi eravamo lì a guardare, dissi io e mia madre. Naturalmente, lui non vi aveva mandato via, ma eravate molto piccoli, tu e Felice soltanto, tu di 2 anni e mezzo e Felice di 1 anno o poco più. Il bambino era il terzo di voi. Vidi che aveva la testa tutta fuori. E noi eravamo lì a guardare, dissi io, e mia madre, ma sì, e anche il bambino era lì a guardare, fuori con tutta la testa e gli occhi aperti, era un bel bambino, e io urlavo a tuo padre di correre e tirarlo, e sai che fece lui? Alzò le braccia al cielo e si mise a invocare Dio come quando recitava le sue tragedie. Ah, io dissi. E mia madre, sì, questo fece. E il bambino mi guardava, diventava viola in faccia. Era un bel bambino, io non volevo che restasse strozzato. Suppongo che allora arrivò qualcuno, io dissi. E mia madre, ma che? Erano 2 di notte e non arrivò nessuno. ma io afferrai la bottiglia dell'acqua che era sul comodino. Mi aveva preso una gran rabbia e la tirai in testa a tuo padre. Lo colpisti? Io dissi, e mia madre. Perbacco, ho una buona mira. Lo colpii e lui allora si persuase ad aiutarmi. E mi aiutò. Mi tirò fuori il bambino sano e salvo come se fosse un altro uomo e non lui. Ma naturalmente fui più io a spingere che lui a tirare. Aveva la faccia tutta sangue e sudore. Vedi che non era vigliacco, dissi io. Non gli mancava il coraggio. Aveva piuttosto qualche cosa di più che gli andò via con l'uscita del sangue. Qualche cosa di più, esclamò mia madre, e guardava dentro al piatto ormai vuoto. Che vuoi che avesse in più? Non era un uomo come mio padre. Poi si alzò da tavola e andò in una stanza buia dietro la cucina, forse una soffitta, ed era curioso come camminava leggera nei suoi scarponi. «Dove vai?» le gridai dietro. La sua voce mi rispose soffocata come di sotto a una coltre di polvere. «Prendo un melone!» E io fui sicuro che di là era stanza morta, col tetto basso, soffitta. Aspettai, e non c'era più aringa nei piatti né odore d'aringa in cucina. E mia madre tornò, recando in mano un lungo popone. «Vedi, bello!» disse. Un melone d'inverno. Sorrideva ed era un'apparizione lei stessa e il ricordo di lei, due volte reale col popone in mano come di là dall'infanzia, nella casa cantoniera. Si avevano anche i meloni d'inverno, io dissi. E mia madre, sì, li tenevo tra la paglia nel pollaio. Ora li tengo qua in soffitta. Ne ho una decina. Li tenevamo nel pollaio, dissi io. Ma se era un mistero dove li tenevi, non riuscivamo mai a saperlo. Pareva che li custodissi dentro di te e ogni tanto una domenica ne mettevi fuori uno. Andavi via come ora e tornavi con un melone. Era un mistero. E mia madre, immagino che cercavate dappertutto e io, altro che, se fossero stati nel pollaio li avremmo trovati. E mia madre, eppure erano là. Ma in una buca scavata in terra con la paglia sopra. «Ah, ecco!» dissi io. «E noi pensavamo che li custodissi dentro di te, in qualche modo!» Mia madre sorrise. «Era per questo che mi chiamavate Mamma Melone!» disse. «E io, ti chiamavamo Mamma Melone!» E mia madre, «O Mamma dei Meloni, forse!» «Non ricordi?» «Mamma dei meloni!» io esclamai. Il popone fu messo in tavola e rotolò piano verso di me, una volta, due, verde nella forte scorza, sottilmente intarsiata d'oro. Mi chinai ad annusarlo. «È lui!» dissi. E fu odore profondo non di lui solo, vecchio odore come vino del solitario inverno nelle montagne, dinanzi alla linea solitaria, e della sala da pranzo, piccola, col tetto basso nella casa cantoniera. Mi guardai attorno. «Non c'è nessun mobile qui dai nostri», dissi. E mia madre, «Nessun mobile. Ci sono delle stoviglie e le cose di cucina, delle nostre, e le coperte, la biancheria. Il mobilio lo abbiamo venduto venendo qua». «Ma come vi siete decisi a venire qua?» io dissi. E mia madre, «Io ho deciso. Questa è la casa di mio padre e non si paga affitto. La costruì lui un pezzo la domenica. Dove volevi che si andasse?» E io, «Non so, ma certo è così lontano dalla ferrovia qua. Come puoi vivere senza nemmeno vedere la linea?» E mia madre, «Che importa vedere la linea?» E io, dicevo, senza mai sentire passare un treno. E mia madre, «Che importa sentire passare un treno?» E io credevo che ti importasse. «Uscivi tu a stare davanti alla barriera con la bandierina quando lui passava?» «Sì, se non mandavo uno di voi», disse mia madre. E io esclamai, «Ah, mandavi uno di noi qualche volta?» ma non mi importò della sua risposta. Potrei ricordare me e il treno in un rapporto speciale come di dialogo, come se avessi parlato con lui. E un momento mi sentii come se cercassi di ricordarmi le cose che lui mi aveva detto, come se pensassi al mondo nel modo che avevo appreso in quei nostri colloqui da lui. Dissi: c'era un posto dove si stava vicino alla stazione, Serra di Falco, credo. Non la vedevamo, ma potevamo sentire i carri merci cozzare l'uno contro l'altro nelle manovre. Ricordavo inverno, la grande solitudine della campagna tonda, senza alberi, senza foglie, e la terra che odorava, invernale, come un popone, e quel rumore. Mi piacerebbe sentire quel rumore, dissi. E taglia il melone, gridò mia madre. Incisi la forte scorza e il coltello subito affondò. Mia madre intanto aveva portato vino e bicchieri, e il vino era povera cosa, ma il popone era aperto in mezzo alla tavola e bevemmo profumo invernale di popone. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.